America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il piccolo incidente di percorso sulla riforma sanitaria non ha cambiato i programmi del presidente Obama in campagna elettorale. Sottolineo in campagna elettorale perché il presidente ieri è tornato in Iowa, che lanciò con la sua vittoria alle primarie e la sua carriera politica, per iniziare a spiegare al paese il contenuto proprio di questa riforma. La sua è una battaglia in due stadi. Il primo obiettivo è quello di portarsi in avanti per recuperare consensi guardando alle elezioni di metà mandato di novembre. Il secondo è quello di creare un terreno favorevole su cui poi continuare la campagna elettorale per le presidenziali del 2012, dove ovviamente Obama dovrà chiedere un rinnovo del suo mandato. Il problema per i democratici è che, guardando alle elezioni di novembre, la maggioranza delle opinioni pubbliche sembra schierata in modo più favorevole con i repubblicani, e non soltanto per la riforma sanitaria, ma perché si è avuta l'impressione che Barack Obama alla fine non abbia poi mantenuto molte delle sue promesse fatte in campagna elettorale. Ebbene, il presidente ha un'agenda davanti a sé molto intensa, in cui, a partire dalla riforma sanitaria per i prossimi mesi, cercherà di dimostrare esattamente il contrario. Contro di lui ci sono i Tea Parties. Sempre in questi giorni parterà il terzo grande incontro, riunione dei Tea Parties, questo movimento di base, un movimento che è nato in modo spontaneo, formato da giovani, da persone che protestavano l'idea di avere un'intrusione nelle loro polizze sanitarie, un'intrusione fiscale del governo americano, un intervento eccessivo del governo, e hanno organizzato queste manifestazioni spontanee un po' in tutta America. Ebbene, nel weekend ci sarà questa grossa manifestazione in un sobborgo di Las Vegas, dove risiede Harry Reid, il capo della maggioranza democratica al Senato. Harry Reid ha grosse difficoltà perché dovrà lui stesso presentarsi agli elettori in novembre, e sembra che in questo momento i sondaggi lo diano in svantaggio rispetto ai concorrenti. Ovviamente per Barack Obama sarebbe un grosso imbarazzo se un uomo della statura di Harry Reid dovesse perdere a novembre. Dunque la battaglia è in corso, vediamo come l'amministrazione intende combatterla. Dunque, il presidente americano si è reso conto che una vittoria importante sul piano politico, una vittoria storica in questo caso come quella per la riforma sanitaria, gli ha portato consensi, gli ha portato dei vantaggi dal punto di vista dell'immagine straordinari. I giorni della sconfitta del Massachusetts, della sconfitta in Virginia, della sconfitta in New Jersey, quando si persero prima due governatorati e poi il seggio di Ted Kennedy, sono stati archiviati improvvisamente, quantomeno sul piano psicologico. Il presidente si rende conto che deve continuare ad offrire agli americani dei progetti di legge molto concreti, e dunque ha davanti a sé un percorso molto ben organizzato. Risponderà a quelle che sono le contestazioni così un po' di strada, un po' sciocche, diciamolo, dei Tea Parties, che creano delle proteste partendo da luoghi comuni senza offrire poi davvero delle soluzioni molto concrete. Ecco, Obama risponderà invece con delle soluzioni concrete. La prima: la riforma del sistema finanziario. Gli americani sono davvero furibondi con Wall Street, hanno l'impressione di essere stati presi per il naso, vogliono che ci siano delle regole molto più serie, vogliono delle regole per essere non solo protetti loro stessi, ma perché si eviti una prossima crisi. I repubblicani su questo sono un po' più tiepidi, e dunque rischiano su questo tema, se non andranno al seguito di Obama e della proposta di Christopher Nunn al Senato, di trovarsi poi in una posizione difficile, perché su questo tema la stragrande maggioranza degli americani, inclusi i centristi di destra simpatizzanti dei repubblicani e certamente molti repubblicani, direi che sono certamente favorevoli a porre dei limiti alle attività speculative di Wall Street. Nucleare: ci sarà un grande vertice mondiale, tutti i leader, capi di Stato e di governo, ci sarà anche anche il presidente del Consiglio Berlusconi, arriveranno a Washington il 12 e 13 di aprile. Abbiamo saputo da dichiarazione di Medvedev e anche da dichiarazione della Casa Bianca che si è fatto un passo in avanti nel raggiungere un accordo preliminare per l'eliminazione di armi strategiche, per fare un nuovo trattato START fra Russia e Stati Uniti. Ebbene, io sono certo che questo trattato si firmerà formalmente a Washington, nella solennità di nuovo della capitale, di nuovo Russia e Stati Uniti, e soprattutto con il contorno di decine di capi di Stato e di governo. Ecco, di nuovo il settore nucleare è quello che preoccupa molto l'opinione pubblica americana, soprattutto perché la proliferazione di anche bombe sporche crea così timori, forti timori che possano cadere nelle mani dei terroristi, e dunque un intervento su questo fronte sicuramente porterà dei grossi vantaggi al presidente americano. Terzo fronte sarà quello della immigrazione, e poi ci saranno altre cose, ma sarà la continuità di queste piccole vittorie che dovrebbe consentire ai democratici di recuperare terreno, di mettersi in una posizione più istituzionale e concreta, di creare difficoltà al movimento di Tea Parties e di creare i presupposti per quantomeno contenere le perdite a novembre. Rumori che avete sentito sono del traffico di Manhattan, li abbiamo registrati per strada, sulla Quinta Strada, sotto il nostro ufficio, un traffico, quello di Manhattan, che può far impazzire anche il più tranquillo e paziente dei guidatori. Che cosa è successo? Vi accennavo l'altro giorno che c'erano stati dei risultati di uno studio. Ebbene, questo studio finanziato dalla città di New York è stato diramato e il risultato è che il giorno peggiore per mettersi in macchina in città è il mercoledì. Le strade sono super intasate il mercoledì. Perché? Ma dunque, intanto vediamo come è partito questo studio. Sono stati monitorati per un paio d'anni milioni di taxi con il sistema GPS, e in questo modo hanno seguito i percorsi di questi taxi, i loro ritardi, i loro passaggi da un punto all'altro della città, e sono diventati il veicolo attraverso il quale si è poi costruita una mappa generale del traffico di New York. Il problema per il mercoledì è legato al fatto che ci sono una gran quantità di consegne. A metà della settimana camion, Federal Express, UPS, insomma, e i camion che fanno queste consegne non è che siano, diciamo così, molto ligi alle regole. Si posizionano in seconda fila, scaricano quello che devono scaricare, là dove ci sarebbero due corsie ce n'è soltanto una, e si creano dunque questi ingorghi. Aggiunge lo studio che ci sono poi dei giorni particolari al di là del mercoledì in cui è meglio non venire a New York, e dunque, cari ascoltatori, non venite a New York quando c'è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché è un inferno, chiusa dalla polizia per proteggere i 190 capi di Stato e di Governo che arrivano per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un altro giorno brutto per essere a New York è quando ci sono dei ministri o quando c'è una visita del presidente Obama. Di nuovo il sindaco dà ordine alla polizia di bloccare la città per questioni di sicurezza. E dunque chiudiamo con una piccola curiosità, visto che abbiamo parlato di taxi. Sempre secondo lo studio, in un tipico martedì notte ci sono circa 13.000 taxi che si muovono dalla parte settentrionale di New York, dall'Upper East Side, verso la parte meridionale, tra la 14esima e Canal Street. Durante il sabato notte il numero di taxi in circolazione triplica e arriva a 38.000. Questo numero da solo vi dà un'idea delle proporzioni del traffico della Grande Mele. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera americana. Questi approfondimenti continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla a Teddy Pendergrass, grande cantante, vincitore di molti Emmy Award. Voglio dedicarla a lui perché oggi avrebbe compiuto 60 anni e ci ha invece lasciato appena un paio di mesi fa. Come, go with me. Let's take a bene, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.